9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. Ed eccoci sempre con This is the End, i Doors. Alcuni si stanno affezionando a questa sigla che scandisce la mia mente ideale, vi trasmette l'idea di una soluzione dell'euroarea di fronte alla quale giorno dopo giorno i mercati continuano a scommettere e le risposte continuano a non venire. In questo quadro anche stamattina gli spread italiani sono in risalita, visto che siamo verso quota 505. C'è il tour europeo, Monti ieri Barroso ha detto ora riforme incisive, ha dovuto prendere in mano anche la partita di Finmeccanica, avete sentito già nelle radio le resistenze dell'azienda, ma Finmeccanica in quanto azienda a controllo pubblico per via delle indagini giudiziarie sulla porosità ai partiti e ai impropri affari di partiti ed esponenti politici, ovviamente espande intorno a sé in tutto le grandi quotate a controllo pubblico, questa immagine di paese da Bisanzio decadente, ed è un peccato perché è uno dei più grandi gruppi di tecnologia avanzata italiana in paesi molto delicati per la materia di difesa e sicurezza come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quindi certo non contribuisce alla credibilità nazionale. Andiamo come al solito, prima di porci il problema della giornata che riguarda voi italiani, che riguarda la vostra reazione di fronte alla crisi di credibilità europea e dell'Italia, come reagite nella vostra vita quotidiana, perché ci sarà un sondaggio sul quale vi interrogerò e lo illustrerò tra poco, perché in buona sostanza la sintesi è che vi occupate di più della vostra famiglia, del vostro tempo privato, della vostra felicità, e forse anche per questo guardate quindi Fiorello al 42, 43, 44%, con punte da record assoluto, largamente impreviste per lo stesso Fiorello che è un campione. Ma prima di tutto questo, la nostra consueta analisi quotidiana di ciò che ci dicono alcune grandi testate internazionali sulla crisi europea. Ieri la Spagna ha definitivamente smaltito l'ondata di euforia sui mercati durata molto poco, successiva alla vittoria di Mariano Rajoy e dei suoi popolari, e ieri i bonus a tre mesi avevano 5,22 punti da pagare e in più rispetto agli omologhi tedeschi, e quindi siamo in una cattiva condizione, direi. Su questo tre grandi giornali europei oggi fanno un punto perché sostengono che anche se è comprensibile che si dia poca pubblicità al fatto, il bank run è già iniziato, cioè la corsa ai depositi bancari è già cominciato, che è la fase che precede il salto, per così dire, il salto esplosivo. È chiaro che a Radio 24 noi dobbiamo essere molto prudenti prima di parlare di cose di questo tipo. In Grecia il ritiro dei depositi dalle banche commerciali è arrivato a circa un quarto del totale dei depositi nell'ultimo anno, quindi siamo in bank run, siamo nel ritiro dei depositi, nel terrore diffuso. Ma Financial Times Deutschland dice che comunque i requisiti di capitale anche per le banche tedesche pongono un serio problema, perché Financial Times Deutschland dice per esempio che Deutsche Bank e Commerzbank sono in seri problemi su ricapitalizzazione necessaria. Deutsche Bank da sola c'è un problema di 350 miliardi di asset che vengono da investitori professionali il cui rischio di liquidità è molto forte. Handelsblatt è quello che si sofferma soprattutto sulle difficoltà invece di Commerzbank, e da questo punto di vista invece il Frankfurter Allgemeine cita un'analisi di Citigroup secondo la quale le banche europee, alcune grandi banche europee hanno iniziato a registrare in realtà significative ritiri dei depositi, e quindi il bank run si sarebbe esteso anche altrove, non solo in Grecia. In particolare questo rapporto cita Unicredit e Banca Intesa, dicendo che per Unicredit i depositi sarebbero diminuiti del 10% nel secondo trimestre di quest'anno, quindi non sono dati che si riferiscono al terzo, ai mesi che sono appena terminati. Sarebbe interessante vedere se questo 10% del secondo trimestre è vero e se il fenomeno è un ulteriore accrescimento nel terzo trimestre. E anche Intesa avrebbe visto una diminuzione del 16% dei depositi nel secondo trimestre, e con punto interrogativo per il terzo. inciso, arriva il BTP Day, io sono contrario anche per questo, ma come le banche devono liberarsi i titoli del debito pubblico italiano perché sono troppo rischiosi e ve li rifilano a voi risparmiatori, non lo so, non ci cascate in questa storia del patriottismo. Il patriottismo gli italiani lo rivelano avendo già più di 110 miliardi di euro in liquidi e depositi presso il sistema bancario, il sistema delle poste, e tutto sommato sul totale del debito pubblico solo il 42% è detenuto da non residenti. Ma che sia patriottico prendere titoli di cui se vi doveste disfare l'indomani, magari perché non lo so, vostra moglie ha un incidente, si deve operare e voi avete bisogno di liquidità per farlo operare d'urgenza, e a quel punto io vi devo dire che non vi fate allettare dal 7% del premio a rischio sugli interessi, che può sembrare una cosa molto lucrosa, perché se li vendete sul mercato secondario ci perdete sul nominale, ci perdete tantissimo rispetto al valore nominale. Quindi tutta questa cosa dell'oro alla patria io non la condivido, a maggior ragione se i dati sul ritiro dei depositi delle banche italiane di cui parla il Frankfurter Allgemeine sono fondati. E naturalmente non occorre che vi debba sottolineare la singolarità che noi leggiamo cifre del sistema bancario italiano sulla stampa tra straniera. Immagino che qualcuno già dirà: ecco perché gli stranieri parlano male dell'Italia. Secondo me i dati è meglio saperli piuttosto che non saperli. Poi vediamo ancora altre cose interessanti. Il Belgio ieri, dopo il rifiuto del dirupo al 525esimo giorno, quindi senza governo, di formare il governo, il Belgio stamattina è a 320 punti base di spread, cioè esattamente dove Italia e Spagna erano 4 mesi fa. Il Belgio ha iniziato il canale anche lui dell'ascesa a questo punto incontrollata di spread. Si aggiunge un altro paese, un altro fomito di instabilità nell'euroarea. Poi sulla risposta, Angela Merkel ha avuto un colloquio con Sarkozy nella serata di ieri, lo ha convinto, tanto per cambiare, alla linea per la quale no eurobonds, sì alle modifiche dei trattati, come se i mercati potessero credere alle modifiche dei trattati così lunghe nel tempo e così complicate da adottare. Questo è ciò che trovate in apertura di Les Echos e di Figaro stamattina. È evidente che il margine del presidente francese nei confronti dei tedeschi di dissenso è tragicamente zero. Les Echos si sofferma tra l'altro sulla distanza tra le cifre del bilancio pubblico francese e quelle accettabili dal punto di vista dei mercati, perché dovete sapere che il debito pubblico francese passa dall'83% all'88,3% quest'anno e non c'è verso di riportarlo all'82% se non prima del 2017, secondo le attuali proiezioni dello stesso governo francese. Sarkozy è contrario a ogni ulteriore giro di vite sulla spesa pubblica e sul deficit. Bild, vediamo come presenta l'euro confusione il popolarissimo giornale tedesco. Mi serve sempre come riferimento per farvi capire che è un giornale che vale le mani di 10 milioni di persone, che tasta quindi il polso e soprattutto dà l'opinione pubblica alla pancia dei lettori tedeschi. E l'articolo di fondo dedicato dal Bild oggi all'euro confusione è: l'intero mondo vuole i nostri soldi, per essere chiari. E da Barroso, presidente della Commissione europea, a tutti i sostenitori sulla stampa europea degli eurobond, vengono tutti equiparati a una massa di topi che vogliono rodere nelle tasche dei tedeschi. Ecco, finché rappresentiamo così la situazione, che ha un qualche fondamento di verità, ma insomma non troppo, temo che noi la situazione non la sblocchiamo e quindi continueremo a sentire i dorsi sperando che la situazione non esploda. In tutto questo mi ha colpito ieri un sondaggio di cui ho letto su Repubblica, anzi una ricerca, uno studio di Future Pool, che è una divisione di ricerca del Future Laboratory, è una ricerca che hanno fatto per American Express, quindi per una delle più grandi carte di credito mondiali. E in questa ricerca internazionale c'era un capitolo che ha riguardato anche la risposta degli italiani di fronte alla crisi. E mi ha molto colpito leggere questi dati, che secondo questo studio di Future Pool l'Italia che cambia punterebbe su quelli che gli italiani giudicano i valori veri. Quali sono questi valori veri? Per l'85% degli italiani la felicità conta più del denaro. Per il 70% mettere la famiglia prima del lavoro è un must, è la vera reazione alla crisi, la famiglia. il passare del tempo di qualità in famiglia è una cosa che batte come priorità avere un lavoro appagante o giudicare professionalmente gli altri, quindi chiedere più merito non solo da sé, lavorare di più per sé, ma chiedere che lo stesso facciano gli altri, chiedere insomma che la risposta del paese sia motivata su le priorità di fondo di tirarci dal fango in cui siamo economico. Invece no, invece la risposta degli italiani sarebbe essere quella di essere più determinati nel vivere appieno la vita, perché la crisi ha modificato le priorità, però le priorità di fondo sono la famiglia, il tempo libero, la felicità. Allora, a me, devo dirvi la verità, istintivamente questa cosa, io non metto in dubbio, la ricerca evidentemente ha una capacità di leggere di fondo, è stata ben fatta, e quindi evidentemente questa è la reazione di fondo degli italiani. Poi mi sono detto, ma sarà anche per questo evidentemente che ha tutto questo successo travolgente Fiorello, con il suo format di uno spettacolo di intrattenimento vecchio stile, anni 60 tutto sommato. Non è una critica, Fiorello è eccezionale, ci mancherebbe altro. Sto dicendo che mi colpisce il fatto che coi tempi che corrono il 43-44% degli italiani si mettano lì a vedere una cosa che sembra stupendamente ben fatto, Studio 1 di 40-50 anni fa, e che è deliberatamente... intenzionalmente fatto secondo quello stile da Fiorello, e che evidentemente sa leggere nelle vostre teste di italiani, evidentemente in linea con questo sondaggio di Future Poll pubblicato ieri da Repubblica, perché è così solo che si può spiegare come quasi uno su due tra voi senta il richiamo di esattamente di un format di quel tipo, fatto in quel modo intenzionalmente, come per portarci fuori dal tempo, perché alla fine, ma perché dobbiamo occuparci sempre dei politici che ci hanno portato in questa condizione, del fatto che i politici europei non sono molto meglio di quelli che avevamo in Italia perché non capiscono, del fatto che intorno a noi c'è una società senza merito, del fatto che dovunque ci si giri sono le relazioni e le conoscenze quelle che fanno andare avanti e non criteri oggettivi e condivisi su come misurare il nostro lavoro e quello degli altri. Ecco, mi sono detto, ma è proprio così? E io perché avverto un fastidio verso tutto questo, pensando che sia una specie di rifiuto un po' fatalistico di tirarci tutti sulle maniche, a cominciare da noi stessi? Ecco, questa è la domanda, e questa domanda io pongo a un sociologo, Francesco Morace, che è proprio il presidente del Future Concept Lab, che ha realizzato questa ricerca su Carriera a Dio vince la felicità, presentata ieri da Repubblica, e ripeto che era stata commissionata da American Express. Innanzitutto grazie e buongiorno a Francesco Morace. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ci spiega innanzitutto questa ricerca, con che criterio è stata realizzata dal punto di vista delle caratteristiche scientifiche, cosa è stato, una qualitativa, una quantitativa, su quanti italiani, e poi ci dà un'interpretazione di questo tipo di messaggi, quanto sono diversi rispetto al pre-crisi un anno fa, due anni fa, da analoghe ricerche fatte sugli italiani? Certo, benissimo. Allora, chiarisco un aspetto che è molto importante, perché va nella direzione anche della sua interpretazione. La ricerca non è stata realizzata da noi, ma dall'Istituto Inglese di Londra. Noi siamo stati consulenti per quanto riguarda la parte italiana, e questo spiega già tanto, perché la lettura degli inglesi è stata che questi dati corrispondono alla reazione degli italiani alla crisi. Quello che invece noi da italiani sappiamo, anche perché da 20 anni che realizziamo ricerche di questo tipo, è che questi dati sono molto simili ai dati che 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa già emergevano. Cioè, l'Italia è un paese familista per definizione, non ha mai veramente abbracciato il paradigma, diciamo, economico-centrico. Oggi semplicemente emerge un po' il vantaggio del ritardo dell'Italia, no? Su questo, perché nel momento in cui quel paradigma entra in crisi, noi in qualche modo esprimiamo semplicemente i nostri valori più profondi, quindi la famiglia, che è sempre stata al primo posto, l'attenzione alle relazioni più che allo status. Non dimentichiamoci che nel mondo anglosassone la prima cosa che una persona ti chiede quando ti conosce è quanto guadagni. Da noi questo è un tabù, ecco, quindi credo che questo possa spiegare in parte il suo fastidio. Da noi è un tabù, tranne che poi ciascuno dice di guadagnare poco in sé per sé, tranne che tutti quelli intorno guadagnano invece troppo rispetto all'impressione di ciascuno. È come per l'evasione: ciascuno di noi è perfettamente in regola, è sempre il vicino di casa quello che c'ha la macchina troppo potente. Allora, lei dice che in realtà questo è un carattere permanente, cioè in realtà gli italiani sono, per così dire, molto resistenti all'idea che ci sia un contesto di relazione non centrato sulla famiglia, A, B, una priorità di vita che non sia quella della qualità della vita nel tempo libero, C, che si giudichi davvero qualcuno per il suo successo professionale invece che per il calore con cui risponde a questo tipo di relazioni familiari. Questi sono caratteri, lei dice, di fondo permanenti, che niente né negli ultimi decenni niente le ha spostate. Esattamente, quindi questo è, come dire, il dato, anche comparandolo, che la ricerca era internazionale, quindi era anche interessante vedere le differenze, no? Quello che colpisce un inglese o un istituto inglese è che in Italia sia così forte la centralità della famiglia, della relazione, direi della quotidianità, cioè il nostro paradigma di riferimento non riguarda la nostra visione pubblica o la nostra visione economica e di status, ma riguarda la nostra capacità di stare al mondo nel quotidiano, che può essere anche considerato un vantaggio in un momento di crisi, no? Perché è chiaro che noi siamo più bravi a reagire a una crisi epocale, quindi io direi proprio, parlerei di nuovi paradigmi che emergono. Anche a me piace molto la canzone The Doors, The End, perché è la fine di un mondo. Allora, se quel mondo finisce, l'Italia potrebbe avere stranamente il vantaggio del ritardo, cioè non averlo abbracciato fino in fondo e poter anche positivamente, invece in questo caso, reagire come sta reagendo, cioè partendo dal territorio, partendo dal stringere relazioni più forti, tornare alla famiglia, che sicuramente può essere una chiusura, ma può essere anche ripartire, perché la famiglia tradizionale è in crisi, quindi spesso viene in qualche modo sostituita dalle amicizie, dalla capacità anche solo di recuperare la vita di quartiere, no? Che è un grande fenomeno di questi ultimi mesi. Oh, attenzione, perché vorrei che fosse chiaro e vorrei anche che mi aiutasse a spiegarlo. Io, alcuni ascoltatori mandano sms e dicono, ah, come, attaccate la famiglia? No, al contrario, io non intendo affatto sottovalutare la positività dell'importanza che l'istituto della famiglia, che non dimentichiamolo mai, con un welfare zoppicante italiano, con un fisco che è il più ostile alla propensione a fare figli, perché abbiamo il fisco che è più ostile per la sostenibilità finanziaria delle famiglie numerose, è chiaro che la famiglia è da sempre il primo elemento di integrazione dei redditi, quindi è la cellula fondamentale della resistenza, per così dire, economico e sociale del nostro paese, perché assolve una funzione che altrove è fatta dalla generalità di servizi universali ben mirati sulle fasce di chi ha più bisogno. Da noi quel welfare non lo abbiamo, abbiamo un welfare universalistico fatto per nicchie molto estese che ne approfittano in termini di prezzi di beni intermedi e di forniture, e fatto su la tutela di alcune fasce che sono poi ipertutelate rispetto ad altre che invece non le hanno. Classicamente si va a vedere il criterio asili nido, dove vince ovviamente il commerciante rispetto a chi ha reddito dipendente, e così via, fino a chi perde posti di lavoro Cococò che non ha gli integratori. Per questo la famiglia ha un ruolo fondamentale. Dico solo che l'anomalia e singolarità è il fatto che le relazioni, il tempo libero con la famiglia, l'universo quasi concluso della misura della qualità della vita che gli italiani danno come risposta è all'interno della famiglia o di un nucleo familiare più ampio e più esteso, invece che un'interazione col mondo più ampio fatto di maggior propensione alla mobilità geografica, quindi territoriale, maggior interesse culturale, al di là del fatto che la famiglia sia fondamentale. Leggo bene anche questo rapporto in questo senso, Moraci, oppure no? Non è che sottolineare questo è come dire gli italiani sono familisti in senso guicciardiniano. Esatto, allora la famiglia, come dice lei, è il grande e unico ammortizzatore sociale in Italia, e quindi è legato ad un parametro e ad un paradigma che non è economico ma è relazionale ed è sociologico, quindi questo è importante chiarirlo, ed è la nostra grande fortuna, perché se non ci fosse, se non avessimo paese, neanche quello, saremmo in ginocchio. Esatto, saremmo sull'orlo di una crisi di nervi. Detto questo, però, è importante, io credo, individuare quali sono le opportunità in positivo, quindi trasformare questa cultura familista che per troppo tempo e per troppi motivi ci tiene comunque in basso, e invece sprigionare questa nostra capacità che è relazionale. Quindi è curioso vedere che per esempio i grandi guru anche del management anglosassone oggi stanno recuperando la dimensione del marketing relazionale, l'idea, la scelta intuitiva, che sono tutte cose che noi italiani abbiamo perché vivendo in questa dimensione abbiamo un vantaggio competitivo. Peccato che però non lo viviamo mai nella dimensione economica delle aziende, se non nella dimensione imprenditoriale. Ecco, su questo l'Italia continua a essere un paese in realtà di imprenditori, magari anche molto come dire piccoli, ma con questa capacità di lettura del contesto che è molto intuitiva. Però oggi questo non basta, quindi bisogna su questo lavorare in termini di sistematicità, bisogna imparare dagli anglosassoni questa dimensione strutturale che non può essere familista e sprigionare le nostre energie che abbiamo, capendo che il paradigma è cambiato e paradossalmente può essere un vantaggio per noi. Ora, io perché tendo a collegare questo alla crisi? Perché ho un'impressione, cari radioascoltatori, rispetto al tema centrale di questo governo che si è formato da poco, cioè il tema dei professori, no? Il tema dei tecnici che spodestano la politica, la democrazia e il suffragio universale, di questa specie di oltraggio che è stato vissuto dalla politica italiana e che molti continuano a far dire sui giornali di centrodestra che siamo in presenza di qualcosa di simile al colpo di Stato poi che emanerebbe da chi? In definitiva dalle cricche dei banchieri che poi hanno creato la crisi e sono gli unici che continuano ad avvantaggiarsene. Allora, di fronte a tutto questo contesto, questo enorme contenitore le cui mura hanno crepe e che è un po' quella crisi in cui siamo, crisi di valori dell'Occidente, no? Da cui The Doors, io ho la seguente impressione: nel nostro paese, se noi non abbiamo valori condivisi competitivi dal basso, cioè se la nostra risposta alle difficoltà di un paese molto patrimonializzato ma che inizia a dover intaccare sempre di più i risparmi dei nostri padri e quelli che abbiamo fatto noi per dare casa ai figli, perché se no non gliela dà nessuno, perché abbiamo un'università che è stata costruita su chi ci lavora e non sull'idea che ci siano differenze qualitative accettate comunemente in base a cui destinare anche i contributi pubblici, perché bisogna premiare di più l'eccellenza e bisogna puntare ad avere pochi atenei di eccellenza mondiale e continentale rispetto ai presidi territoriali, accettando queste distinzioni. Se noi invece continuiamo a pensare che tutti devono essere uguali e invidiamo chi ha di più, se pensiamo che anzi persino in Italia, dove il patrimonio è distribuito meglio che negli altri paesi, cioè significa che chi ha i più ha comunque meno rispetto a ciò che ha la stessa percentuale minoritaria negli altri paesi avanzati, io penso alla fine che se le classi dirigenti italiane, non solo i politici, non solo i manager, vedi Finmeccanica, non solo magari anche quelli privati che tendono a sottopatrimonializzare la propria impresa e a tenere più patrimonio per sé, se noi abbiamo un problema dovunque di classe dirigente, ma sarà secondo voi o non sarà? Anche perché gli italiani alla fine preferiscono avere valori in cui a tutto si antepone la qualità della vita con i propri familiari, a tutto si antepone la ristretta cerchia relazionale di un mondo molto chiuso in se stesso, a tutto si antepone un'idea di felicità fatta sul tempo libero piuttosto che sull'impegno, la fatica, lavorare di più, chiedere di più a se stessi e sapersi far accettare di farsi giudicare e misurare, che è la cosa a cui gli italiani sono più renitenti. Perché se alla fine sono gli renitenti, ciascuno di noi è renitente nella nostra vita quotidiana, dovremmo immaginare che i politici, i manager pubblici siano meno renitenti di noi? Alla fine le classi dirigenti non sono esattamente quello che ci meritiamo? Perdonate la brutalità della domanda, volevo arrivare esattamente qui da un sondaggio che, come ci ha spiegato Francesco Moraci, in realtà non è la risposta nuova dagli italiani alla crisi, è la caratteristica da sempre rivelata dagli italiani. Se ragionano così, alla fine, perdonate, vuol dire che la società civile è uguale ai difetti della società politica, di quella imprenditoriale, banchiera, dei finanzieri, e alla fine c'è una comune caratteristica: se anteponete anche voi la qualità privata e la vostra cerchia ristretta, come dice questo sondaggio, perché un politico non dovrebbe fare la stessa cosa? E perché un banchiere non dovrebbe fare la stessa cosa? Perché un imprenditore non dovrebbe fare la stessa cosa? Ebbene sì, forse ci spieghiamo meglio di cosa abbiamo bisogno. Punto, fine del pistolotto, andiamo in pubblicità. Non sto facendo una pratica a favore del calvinismo contro il cattolicesimo familista, non mi interessa riproporre letture come quelle degli anni 50 americane che ci hanno inchiodato al presupposto che siamo dei familisti in quanto cattolici, non è questo il punto. Dico solo che l'etica pubblica si costruisce facendosi misurare in privato, e per farsi misurare in privato bisogna spogliarsi del pregiudizio che gli altri non ci capiscano, perché noi abbiamo sempre ragione. Eccoci, cari ascoltatori, tornati all'interrogativo da cui siamo arrivati alla fine un po' macchinosa. Siamo partiti dalla crisi sui mercati europei, siamo passati per un sondaggio, e un sondaggio che si interrogava sulla risposta degli italiani alla crisi. Abbiamo capito che la risposta degli italiani alla crisi sembrava a chi l'ha commissionato in Gran Bretagna, ma in realtà è la risposta degli italiani da sempre alle domande che gli si fa su che cosa sono prioritari per loro. E siamo arrivati al punto che gli italiani dicono sempre più o meno di preferire qualche cosa che in realtà nella loro vita privata, racchiusa, intima, quella è la vera qualità, è la vera felicità, è il valore prioritario rispetto a tutto. Mia conclusione: finché noi saremmo così, forse ci spiegheremo di più perché le classi dirigenti adottano questo stesso criterio, perché adottano un criterio di una relazione stretta, di un ambito molto stretto in cui misurare ciò che conta davvero è più importante di tutto, e a questo si piega la logica attraverso la quale funzionano poi le relazioni pubbliche, si mettono in piedi le organizzazioni pubbliche, l'intermediazione pubblica del reddito nazionale, ed è questo che spiega un paese che non fa dell'efficienza il primo obiettivo, perché l'efficienza si fonda, funziona, se non applicata a livelli ristretti e non identificata nel benessere di livelli ristretti intorno a sé, ma al contrario su ambiti molto aperti in cui ci sono strumenti quantitativi condivisi per farsi misurare e il successo e il merito e le cariche elettive importanti, e chi comanda nel settore pubblico come quello privato, come nelle imprese, si giudica proprio su questo, perché c'è uno strumento condiviso che parte dalla disponibilità di ciascuno di farsi misurare in questo modo, dalla disponibilità di ciascuno, per esempio in crisi, a lavorare di più invece che a chiedere di lavorare di meno per tutti, perché la seconda è una cosa fatalistica che non vuole prescindere dal fatto che il tempo libero è la cosa più importante nella nostra vita. Domanda: è da questo che dipende anche il fatto che poi uno show come quello di Fiorello ottiene cifre di ascolto, audience 42-43%, 12-13 milioni di italiani, così spettacolarmente elevate, e lasciando senza parole anche tutti coloro che, pur convinti che Fiorello sia bravissimo, comunque devono per l'ennesima volta considerarlo un fenomeno, fenomeno non solo perché è strepitosamente bravo, ma perché ci propone attraverso quel format da Studio 1, deliberatamente fuori dal tempo e sospeso attraverso una cortina di eccellenza professionale, ma separato attraverso quell'eccellenza professionale da il mondo fuori, che è il mondo in decomposizione perché fortemente in crisi, quello dei Doors da cui partiamo. È per questo che si spiega per l'ennesima volta il paradosso del successo di un artista che sa vedere nelle vostre teste, nelle vostre pancia, evidentemente molto meglio degli altri, che coglie esattamente quei dati che abbiamo visto fotografati in quella ricerca. Lo chiediamo a Massimo Bernardini, giornalista, conduttore di TV Talk su Rai 3, una delle nostre massime guide per attribuire alla cartocciata realtà collassata nel tempo che è la televisione, in realtà ciò che compete alla televisione. La televisione compete anche la capacità di essere strumento, di rivelarci in tempi lunghi e più distesi ciò che in tempo collassato tendiamo a non vedere nella scatoletta, e cioè che sa leggere nella nostra testa e dà delle risposte il più possibile adeguate a ciò che davvero pensiamo, perché è questo che poi la televisione deve fare per avere successo. Allora, Bernardini, Fiorello è tutto questo oppure non lo sai ed è semplicemente strepitosamente bravo e per questo piace? Allora, premessa, buongiorno a tutti innanzitutto, a lei Giannino e agli ascoltatori. A me ha colpito nel suo ragionamento il tema del tempo libero, nel senso che è un po' diventata l'ideologia presente il tempo libero, no? La vita reale è il tempo libero, dove ci sono i rapporti sinceri, le cose autentiche, le cose che ti abbracciano, dolci, buone per la vita, e la durezza della realtà, cioè il lavoro, la crisi, il casino, che ne so, i superiori che ti rompono le palle, eccetera, sono invece la vita da cui scappare, no? E qui veniamo alla faccenda. Allora, Fiorello è una fuga o è il presente? Innanzitutto io credo che né Fiorello né i suoi autori si pongano problemi simili, nel senso che loro quello sanno fare, mi viene da dire, no? E poi la famosa polemica se è innovatore o meno, io la sento un pochino, cioè è reale, nel senso che è vero che non è innovativo questo nuovo show, però li avete visti i capelli grigi di Fiorello? È un po' dura essere innovativi quando si è fatto un passo in un'altra zona della vita, secondo me, nel senso che, come dire, ormai è un classico lui, insomma, non credo che da lui e dalla sua carriera avremo più exploit creativi come 20 anni fa, insomma. Però mi stimola molto l'idea che questa voglia di classico... Però un momento, prima che si inoltra, sì. Lei intanto dice nella squadra intorno a Fiorello non dobbiamo pensare che ci siano dei raffinati ermeneuti sociologici di ciò che gli ascoltatori... Sì, sì. No. Neanche quel geniaccio di Giampiero Solari è così, nel senso che in realtà poi sono artigiani, rendiamoci sempre conto, noi abbiamo sta malattia in Italia che va dagli anni 70 in avanti, continuiamo a pensare agli artisti come degli intellettuali e quindi ne facciamo degli opinion leader e quindi ne facciamo dei guru. Questa è una solenne stupidaggine che facciamo da tanti anni. Gli artisti sono artisti, sono gente, come dire, ambigua per natura, non so come dire, non possono essere dei leader opinion. Loro giocano, no? Come dicono gli anglosassoni, play, e quindi si va via così. Da questo punto di vista, però, proviamo a pensarci, sono 20 anni che lavoro con questi autori, forse più di 10, però, più di un decennio. Quindi voglio dire, anche loro sono invecchiati con lui, non so come dire, per cambiare cosa dovrebbe fare un autore televisivo, dire beh, cambio squadra completamente, piglio dei giovani ventenni, allora ventenni non ce ne sono più nella squadra di Fiorello e quindi c'è una sensibilità, come dire, antica di fatto. Questo è un po' il punto, però ci corrisponde. I dati d'ascolto che vanno dagli 8 ai 70 anni, teniamo presente che lì c'è 40 in tutte queste cifre. Il vero problema di Fiorello a questo punto drammatico sono i bambini dai 4 ai 7 anni che hanno solo il 30%. Cioè, l'unica fascia che è sotto la 40. Non so come lo risolverà, però insomma è un problema grave per lui. Hanno solo il 30 i bambini dai 4 ai 7 anni. Tutto il resto sono 40. Però ci stai dicendo, in realtà è perché, quindi fa questo perché lui è bravo a fare questo, la sua squadra di artigiani è ottima a fare questo, non è una cosa studiata a tavolino, ma perché sono bravi a fare questo e sono bravi a fare una cosa che poi però sicuramente è quella che piace agli italiani. Ma sì, perché non corrisponde a questa voglia, dicevo prima, tempo libero, cioè poi uno può giudicare moralmente una follia quello che stiamo vivendo. Ma noi stiamo vivendo la stagione in cui c'è la filosofia del tempo libero. L'happy hour è la, come dire, l'idea che le nuove generazioni scappano dal lavoro per ritrovare se stessi nel tempo libero, secondo me la dice lunga, secondo me la dice lunga sul nostro futuro, però voglio dire, qualche generazione fa questo non avveniva. Cioè tu te la giocavi tutta nella battaglia, come dire, del lavoro, dello studio, insomma di quello che ti tocca veramente, no? E poi certo, poi c'era il tempo libero. Adesso è come se si fosse persa la speranza di cambiare la battaglia quotidiana e allora c'è un po' l'idea del tempo libero come unica verità di sé, che è un po' un dramma, però mi pare, no? A me pare di sì, però io vedo che questo è un tema sul quale gli ascoltatori sono pronti ad attaccare molto duramente. C'ho tantissime sms arrivate al 349-238-6666 ascoltatori che lavorano molto, ne cito uno per tutti, mi scuso con lui, Danilo, che evidentemente lavora in strada, dice io lavoro 13 ore al giorno, non posso sentirmi dire che devo lavorare ancora di più. Danilo, io non ce l'ho con chi lavora molto dicendo che deve lavorare di più, dico che questa risposta che c'è di massa nei sondaggi demoscopici sempre di più degli italiani per i quali la qualità della vita è altro dal lavoro e dal merito, perché l'ambito di relazione è quello il più ristretto possibile della famiglia, indica appunto una difficoltà ad accettare che poi altri possano giudicare il merito, innanzitutto quello di se stessi, perché bisogna farlo in contesti relazionali molto più ampi che quello del piccolo mondo in cui e per cui si fanno tutti questi sacrifici. Quindi la reazione di molti di voi è quella di equivocare, come se vi stessi dicendo, come se fosse una specie di piccolo nazista su una panca che dice lavorate di più. No, io non sto dicendo questo, sto dicendo che bisogna avere una mentalità più ampia. Il mondo funziona se si interagisce in ambiti più larghi, soprattutto un mondo globalizzato, se ci pensate. Il mondo globalizzato non può pensare di essere ben interpretato da chi è autocentrato in contesto relazionale familiare. Questo è un po' il punto di forza dell'Italia di fronte ai guai, c'è la famiglia, non voglio che voi equivochiate, ma è un punto di debolezza, perché finiamo per attribuire agli altri i difetti, le classi dirigenti italiane, che sono gli stessi nostri interiorizzati. Se la famiglia viene prima, viene prima la corrente di partito. Se la famiglia viene prima, la moglie manager va difesa oltre ogni evidenza e al di là di quello che diranno i giudici nell'inchiesta, e si travolge la credibilità di un gruppo come Finmeccanica. Faccio un altro esempio della cronaca di questi giorni, e non voglio essere equivocato perché non ce l'ho personalmente né con il presidente né con la moglie che guida Selex Sistemi Integrati. Dico al contrario che da italiano farei il ragionamento, e da ministro controllante farei il ragionamento, che un gruppo arrivato a 19 miliardi di euro di fatturato e che l'Italia nel mondo di quelle tecnologie così delicate, bisogna tenerlo in sicurezza rispetto alle vicende di un contesto così piccolo. E mettere in sicurezza significa che a quel punto il ministro controllante deve dire stop, io c'ho bisogno di difendere l'azienda al di là di quello che diranno i magistrati, di quello che voi avete fatto o non avete fatto, e quindi si sostituisce. Sono cose elementari, però vedete che il contesto delle relazioni strette, anteposto a tutto, è un criterio attraverso cui si legge trasversalmente il fatto che nella società italiana c'è sempre qualcuno che alza il dito e dice no, tu non ti puoi permettere di dire questo, perché io, il mio criterio è questo ed è anteposto a tutto. È così che alla fine le classi dirigenti rispecchiano i paesi. Questo a molti di voi dà molto fastidio, non siete d'accordo. C'ho molti sms, per esempio l'ascoltatore del Movimento 5 Stelle, che dice che io sto tentando di dire che quindi questa è la spiegazione del perché le cose devono andare sempre peggio e del perché erano buoni politici precedenti. No, al contrario, io non sto dicendo questo rispetto all'opinione politica di ciascuno. Mi pongo un problema, e anche grazie a letture come questa che ci ha appena dato Massimo Bernardini, del fatto che contestualmente poi a beccarsi un audience così elevato sia uno strepitoso artista, ma mi gratto la testa a vedere che quella è il tipo di cosa che poi gli italiani dicono: ecco, va bene, liberiamoci la testa, adesso facciamo come se fossimo a Studio 1 negli anni 60, in quell'Italia lì, capite, che era un'Italia di certezze solidissime, non di mercati che travolgevano tutto in tempo reale. Un po' c'è questo effetto, però Bernardini mi ha rassicurato, perché intorno a Fiorello non ci sono dei maghi assoluti che sanno leggere nelle vostre teste, non è una lettura sociologica, è semplicemente che lui è bravo a far quello, e allora io gli batto le mani. Ringrazio Massimo Bernardini, abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale, poi le vostre telefonate. This is the end, beautiful friend. Eh beh sì, come sentite, oramai è diventato un costume fedele quello di iniziare e terminare la trasmissione con le musiche, con la musica dei Doors. È veramente eterna pace e grande riconoscenza a uno come Jim Morrison. Allora, sentiamo come la pensa sui temi che abbiamo toccato oggi Michele che ci chiama da Milano. Prego Michele. Buongiorno Oscar, carissimo, buongiorno a tutti. Io volevo soltanto permettermi di segnalare una chiave di interpretazione magari un po' diversa, più antropologica. Io ritengo che l'italiano stia lavorando molto, veramente tanto, ma a livello istintivo credo che quando si arriva al punto di credere o di sentire che i propri sforzi non riescano poi a tutelare o a raggiungere degli obiettivi perché dall'esterno dell'ambito familiare non ci sia una tutela, non ci sia un aiuto, ma quasi gente che rema contro, penso che sia quasi un'azione istintiva quella di andare a chiudersi nella famiglia, quel qualcosa che forse si sente veramente suo, e quando si ha addirittura la sensazione che nonostante gli sforzi ci sia sempre qualcuno pronto a togliere il panino dalla bocca dei tuoi figli. Penso che sia proprio un'azione istintiva questa, almeno io credo. E quindi questo tratto caratteristico del tempo libero e famiglia si spiegherebbe anche con una reazione di fronte al fatto che ti puoi impegnare quanto vuoi, ma poi non vieni giudicato per il merito, non vieni premiato per questo. Questa è una componente che io credo è molto forte nello spiegare come è cambiato, almeno si vede all'università, l'atteggiamento dei giovani. Le attese sono basse da parte dei giovani, la rabbia è tanta, ma è tanta in pochi, a dire la verità, non è molto diffusa, è tanta in pochi, quelli che poi vanno in piazza eccetera eccetera, ma negli altri non è così, c'è un'attesa bassa, credo proprio per quello che hai detto tu Michele. Ma è giusto? Non lo so, la mia opinione è che dal basso nascono i cambiamenti, persino le rivoluzioni sono sempre nate solo dal basso, le rivolte diventano rivoluzioni poi quando dal basso ci si collega a qualcosa che è in alto, questo sì, ma insomma è dal basso che si possono cambiare le cose. Alla fine dire è inutile farlo perché nessuno mi giudica per il verso giusto significa consentire anche in quel modo che le cose restino così come sono, anche se la responsabilità tendiamo a attribuirla ad altri. Come la pensi Walter da Alessandria? Sì, buongiorno. Io mi collego a quello che appena adesso ha detto. Le rivolte iniziano dal basso, giustamente, e io volevo far presente, e presente a lei, a tutti, che forse non è l'economia, la politica in primis che si è distaccata dalla realtà da tempo, ma anche l'economia è completamente distaccata dalla realtà vera. E mi riferisco alla realtà di quelle che sono la fascia di età che collega i giovanissimi a quelli che vanno verso l'anzianità, cioè i 30-40 anni. Io vorrei far presente che penso di parlare per me e per molti altri, non voglio parlare per tutti, è chiaro. Presente che noi trentenni abbiamo proprio una visione diametralmente opposta a quello che è la strada che vuole percorrere l'economia mondiale. Noi riteniamo che io lavoro troppo tanto per quello che guadagno, sono sfruttato, sì. Diciamo pure la parola mi faccio finire ancora, scusi se no perdo il filo, non so. Sì, ho un contratto a progetto dove io non voglio più soldi per comprare più cose, ci sono tante persone, non vogliamo di più di soldi. Guarda, potete anche togliermi 50 euro, sopravvivo lo stesso, io voglio tempo per passeggiare nei boschi, per fare una partita a pallone la domenica con mio figlio. Walter, ti devo interrompere perché tra 15 secondi cade la linea. Dico solo che ti capisco, ma non è così che noi lo cambiamo in meglio il mondo. Con tutte le passeggiate il mondo resterà in peggio. Io sono per dire passeggeremo quando daremo ai nostri figli quello che abbiamo ereditato, noi invece gli stiamo dando meno. Fine della giornata, in questo significa il mio messaggio, lavorare di più. Grazie, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.